succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. L'allarme argentina. La decisione di Cristina Kirchner, presidente dell'Argentina, di nazionalizzare i fondi pensione sulla scia della crisi globale ha affondato la borsa di Buenos Aires, meno 10,1%, con pesanti effetti sulla borsa di Madrid e altri titoli, come l'italiana Tenaris. I mercati temono l'insolvenza del paese. Un saluto agli ascoltatori dagli studi di Radio 24 da parte di Bruno Perini e del nostro regista Carmelo Lauricella. Sì, vi sto leggendo la prima pagina del Sole 24 Ore, che mi pare, a una rapida occhiata sulle prime pagine quotidiane, è quello che dà maggiore enfasi, naturalmente, ovviamente, all'allarme argentina. È Roberto Darin che firma questo articolo a pagina 10. Argentina, paura di default. La nazionalizzazione dei fondi pensione fa crollare la borsa. E i timori dei mercati e le rassicurazioni del governo. Oscilla tra questi due poli l'umore degli argentini dopo l'annuncio del progetto di nazionalizzazione dei fondi pensione che verrà presentato al Congresso la prossima settimana. Sullo sfondo lo spettro di un altro default, irrealistico secondo gli analisti governativi, possibile secondo quelli dell'opposizione. Il presidente Cristina Fernández de Kirchner, abito grigio, filo di perle, lo charme di sempre, è intervenuta in TV facendo leva sulle paure non ataviche ma recenti degli argentini. Quando ci sono perdite compare lo Stato, il governo è corso in aiuto dei pensionati. Ecco, probabilmente questo annuncio che doveva essere rassicurante invece allarma tutto il mondo, perché effettivamente si tratta della cosa più delicata, cioè i fondi pensione che contengono milioni di liquidazioni e di lavoratori. E in campo la banca centrale, c'è anche un SOS imprese, evitare il panico e rassicurare mercati, imprese e risparmiatori, è la parola d'ordine delle autorità argentine, nessuna esclusa. Così la banca centrale pubblica sulla propria home page un avviso un po' naif, se le banche, recita così, se le banche non vi danno soldi reclamate allo 0800 999 moneda e cliccate qui. Insomma, anche questo probabilmente l'effetto che doveva essere rassicurante diventa un effetto invece contrario. E il Sole 24 Ore apre con l'altra notizia negativa: in borsa torna la sfiducia, a Washington il 15 novembre il vertice straordinario del G20, i nuovi timori di recessione hanno creato un'atmosfera di sfiducia sulle borse che ieri sono tornate a perdere molto terreno. I pesanti ribassi in Asia ed Europa si sono ulteriormente accentuati a Wall Street, dove l'indice Standard & Poor's 500 ha chiuso a meno 6,1%, e poi avete sentito dal GR che le notizie, insomma, sui mercati, sul mercato giapponese di stamane non sono per nulla buone, quindi staremo a vedere come si evolve la giornata. C'è anche Guido Gentili che firma un editoriale dal titolo Garanzie alle banche, certezza alle imprese, il credito difficile. Il Sole 24 Ore sotto la testata riporta alcune iniziative però di carattere editoriale del gruppo molto interessanti. Da oggi Storia del teatro, Pirandello, Enrico IV, in edicolo Il terzo cofanetto e poi in edicolo ancora Il low cost di qualità, il primo libro La spesa. Sì, queste sono due iniziative editoriali, soprattutto la prima per chi è appassionato di teatro, diciamo il grandissimo Enrico IV di Pirandello. Ecco, allora questo il Sole 24 Ore. Il Sole però si occupa anche di un tema, il tema che poi è quello che c'è su tutte le prime pagine dei giornali. E a proposito di effetto annuncio, l'annuncio di cui stiamo parlando, vi andremo a parlare e a leggere i commenti, è quello di Silvio Berlusconi che con una che qualcuno ha definito una dichiarazione di guerra, annuncia che entrerà la polizia nelle università e nelle nelle scuole per garantire le lezioni. E scrive Stefano Folli a questo proposito sul Sole 24 Ore: le parole eccessive e forse rischiose del Premier. Nessuno dubita che l'esecutivo difenda l'ordine pubblico, ma la scuola esige cautela. Sotto questo aspetto l'uscita berlusconiana appare superflua e rischiosa. Superflua perché nessuno immagina che il governo sia cedevole di fronte all'intolleranza, ma per l'ordine pubblico c'è il Ministero dell'Interno. Se il Presidente del Consiglio scende in campo in prima persona con particolare enfasi, si entra nell'area del rischio. Non tutte le questioni possono essere trattate alla stregua della spazzatura di Napoli, quando l'effetto mediatico e spettacolare era essenziale, soprattutto per dare al Paese l'immagine immediata di un ritorno dello Stato. La scuola ha bisogno di tutt'altro. È bene che il governo abbia un suo programma e dimostri determinazione, scrive Stefano Folli sul Sole 24 Ore, a patto di non dimenticare che la soluzione dei contrasti può venire solo da una seria capacità di ascolto e di confronto, anche a costo di accettare qualche compromesso sui punti cruciali. Ne deriva che l'invito alla moderazione e al buonsenso venuto ieri da Giorgio Napolitano sembra quanto mai opportuno. Viceversa, i toni aspri del Premier rischiano di esporre Palazzo Chigi all'accusa di voler soffocare il dissenso, rendendo così ancor più teso e nevrotico il dibattito politico. Naturalmente è eccessivo parlare di provocazione come fa il Partito Democratico, ma è vero che sabato è in programma un'imponente manifestazione ed è meglio che tutti tengano i nervi saldi. Questo si legge nel commento di Stefano Folli sul quotidiano Il Sole 24 Ore. E di questa questione, insomma, tutti i quotidiani sono pieni, con commenti molto diversi tra di loro. C'è chi si schiera a favore della dichiarazione del Presidente del Consiglio come Il Giornale e Libero, c'è chi invece, come Il Manifesto, l'Unità e la stessa Repubblica, attaccano pesantemente le dichiarazioni di Silvio Berlusconi. Ma Berlusconi, polizia nelle scuole, linea dura contro le occupazioni, Napolitano, le contrapposizioni non servono. Questo è il titolo del quotidiano La Stampa. Sì, vi dicevo che sulle dichiarazioni di Berlusconi si è aperta la polemica più aspra e i quotidiani si dividono nel giudicare queste dichiarazioni. La Stampa che apre così la prima pagina, come vi ho letto, affida a Federico Geremic un commento. Si possono avere le più diverse opinioni critiche, naturalmente, sulla manifestazione nazionale del Partito Democratico, quella che ha messo in cantiere per sabato a Roma. Intanto andrebbe notato come il suo profilo sia cambiato nelle ultime settimane e come sia diventata soprattutto la protesta della scuola che agita le piazze, già collegandole idealmente al corteo di sabato, la spina dorsale di un'iniziativa che era stata lanciata su temi assai diversi. Si può giudicarla comunque inopportuna, considerati i venti di crisi che soffiano sul paese. Su una cosa, al contrario, si dovrebbe essere tutti d'accordo, che la manifestazione di sabato sia pacifica e che possa svolgersi con tranquillità e senza incidenti. Ma se questo è l'auspicio che dovrebbe accomunare maggioranza e opposizione responsabile, allora non si può non rilevare come le dichiarazioni rilasciate ieri dal Presidente del Consiglio, scrive Federico Geremica, intorno all'intenzione di fare intervenire la polizia nelle università e nelle scuole occupate, non rappresentino certo una iniezione di pacatezza e di serenità. Questo scrive Federico Geremica, dice: può darsi che in passato si sia esagerato con l'assismo ed è fuori di dubbio che vada garantito a studenti e insegnanti il diritto di frequentare scuole e università, che ne dicano assemblee autogestite e comitati di base, ma passare da un eccesso all'altro non è mai una buona ricetta, anche perché si creano precedenti potenzialmente pericolosi. Questo sempre Geremica. Poi vi sono due interventi, Riccardo Barenghi, un passo decisivo, e dice e invece un segno debole, Lucia Annunziata, e si ricostruiscono tutte le fasi della protesta fino ad oggi. Io prima di passare però ad altri giornali volevo dirvi due cose a proposito della stampa. Intanto che il suo direttore Giulio Anselmi sarà stamane ospite della trasmissione del direttore Gianfranco Fabi dietro la notizia alle 8:30. E poi volevo segnalarvi sulla stampa un servizio di Francesco Manacorda, molto curioso, perché ci parla sì di Berlusconi, ma dice del Berlusconi banchiere. E vediamo il titolo: Berlusconi banchiere spiazza i suoi colleghi, da Fininvest e Doris 120 milioni per rimborsare le polizze Lehman. Tensione fra il Premier e l'ABI. Per le banche nessun bisogno di ricapitalizzare. Prima la battuta sulle due o tre banche oltre a Unicredit che forse avranno dei vantaggi ad aumentare il proprio capitale trovando le risorse sul mercato. Poi ieri, proprio in contemporanea con il Gran Concilio dei Banchieri che si teneva a Milano, l'annuncio che la stessa Fininvest metterà mano al portafoglio assieme a Degno Doris, sborsando circa 120 milioni per rimborsare i 10.000 clienti Mediolanum che hanno sottoscritto con l'istituto prodotti legati alla defunta Lehman Brothers. In mezzo è ancora storia di martedì scorso, l'avocazione a Palazzo Chigi di un tavolo fra industriali e banche che, a parere dell'ABI, ma a quanto pare non di Confindustria, avrebbe funzionato benissimo anche senza l'intervento del governo. Silvio Berlusconi in versione banchiere, o peggio ancora, salva banche e salva imprese, insomma, decisamente non suscita gli entusiasmi degli istituti di credito. A dimostrarlo innanzitutto la bordata di repliche che ieri è arrivata alle sue parole da buona parte del mondo bancario. Questo è il servizio di Francesco Manacorda, che ha solo un servizio che ha solo la stampa e che è molto interessante per chi segue da vicino tutte le vicende della crisi. La stampa. Diversi, vi dicevo, sono gli orientamenti dei quotidiani, anche molto meno mediati di quello che abbiamo letto sulla stampa. Per esempio Libero titola: scuola in sciopero, attenti a voi ragazzi, il governo ha accolto il nostro appello, interverrà la polizia per rimuovere i picchetti davanti agli istituti, studente avvisato, come dire, mezzo salvato, la manifestazione strumentalizzata dalla sinistra. C'è Vittorio Feltri, direttore, scrive: il giorno del giudizio è arrivato, oggi professori e studenti uniti in un sodalizio innaturale abbandonano i loro ruoli diversi e contrapposti per marciare insieme contro il nemico comune, il governo in generale e la ministra Maria Stella Gelmini in particolare. Motivo: la riforma che non c'è. Di questo si tratta, uno sciopero senza senso organizzato con un pretesto meschino, quello dei tagli ai finanziamenti della scuola. Questo è un giudizio molto secco, duro, violento anche, diciamo, nei toni di Vittorio Feltri. E poi ancora un servizio di Giancarlo Lener che si riferisce in realtà ai blocchi autostradali e non quelli dell'università, ma il titolo ricorda anche blocchi e violenze, ci vuole il carcere fino a 5 anni. E ancora Brunetta, che viene intervistato, dice: chiedo aiuto e prese ai rettori, tornano le occupazioni e i picchetti, il Partito Democratico cavalca la protesta di studenti e insegnanti, si prepara a sfilare in piazza sabato prossimo. Renato Brunetta, ministro della pubblica istruzione, della pubblica amministrazione, scusate, gongola: forza Veltroni, forza Lema, forza PD. E perché mai? Perché più vanno avanti così, più chance abbiamo noi di governare ancora per tanto tempo. Questo dice Brunetta in questa intervista a Libero. Sì, addirittura dice: per decenni, dov'è che sbagliano? Sempre, sono fuori sincrono rispetto al paese. Questo in un'intervista, tra altre cose, il ministro Roberto Maroni, visto da Benny, il disegnatore, in versione antisommossa sul quotidiano Libero. Diverso, come potete immaginare, il tono del quotidiano La Repubblica. La Repubblica affida, anzi è Ezio Mauro che affida a se stesso l'editoriale di prima pagina. Il direttore di Repubblica scrive: se il dissenso è un reato, davanti a una protesta per la riforma della scuola che si allarga in tutta Italia e coinvolge studenti, professori, preside e anche rettori, Il Presidente del Consiglio ha reagito annunciando che spedirà la polizia nelle università per impedire le occupazioni. La capacità berlusconiana di criminalizzare ogni forma di opposizione alla sua leadership è dunque arrivata fin qui, a militarizzare un progetto di riforma scolastica e a trasformare la nascita di un movimento in reato, a far diventare la questione universitaria un problema di ordine pubblico, riportando 40 anni dopo le forze dell'ordine negli Atenei, senza che siano successi incidenti e scontri, ma quasi prefigurandoli, scrive Ezio Mauro. Qualcuno dovrebbe spiegare al Premier che la pubblica discussione e il dissenso sono invece elementi propri di una società democratica, non attentati al totem della potestà suprema di decidere senza alcun limite e senza alcun condizionamento, che trasforma la legittima autonomia del governo in comando ed arbitrio, come se il governo del paese fosse anche l'unico soggetto deputato a fare politica nell'Italia del 2008. Con un contorno di sudditi. E dice ancora, lo testimonio, cioè questo atteggiamento, ma più che il calcolo conta l'istinto e soprattutto la vera cifra del potere berlusconiano, cioè l'insofferenza per il dissenso. Lo testimonia l'attacco ai giornali e alla RAI fatto da un premier editore, proprietario di 3 reti televisive private e col controllo politico delle 3 reti pubbliche, dunque senza il senso della decenza, visto che a settembre lo spazio dedicato dai 7 dei giornali maggiori al governo e al suo leader e alla maggioranza vale dal 52,7% al 82,25%. Questo la Repubblica, quindi, che prende posizione nettamente e affida anche a Michele Serra un altro articolo sulla repressione. Neanche il più acerrimo detrattore del Presidente del Consiglio poteva mettere in conto la desolante dichiarazione di ieri a proposito di scuole e ordine pubblico. L'uso della forza per reprimere i movimenti di piazza e specialmente l'intervento della polizia nei licei e nelle università è in democrazia materia delicatissima. Il giornale invece, Mario Giordano scrive una lettera aperta agli studenti. I toni non sono duri come quelli di Libero, ma la sostanza lo è. Dice, cari studenti, avete voglia di uscire dagli slogan? Lo so che in queste ore di inebrianti ribellioni vi sentite incaricati di una missione altissima. Guardavo per le vie dentro la TV i vostri volti sorpresi dal primo rossore pubblico. E poi dice, ma vi siete mai chiesti però perché ogni riforma della scuola proposta da qualsiasi ministro di qualsiasi partito è sempre fallita? Qui Prodest... E ancora, vi hanno raccontato un sacco di balle sulla riforma Gelmini, l'hanno fatto in classe, l'hanno fatto in modo strumentale, vogliamo discutere, noi siamo qui, a disposizione, oggi non invochiamo, scrive Mario Giordano sul giornale, la polizia, anzi pensiamo che l'intervento delle forze dell'ordine per garantire lo svolgimento delle elezioni sarebbe una sconfitta per tutti, pensateci, e se potete provate a uscire dal solito cliché delle barricate, provate ad andare oltre gli slogan, provate a discutere nel merito come si fa ad avere una scuola migliore. Questo sì che sarebbe per una volta davvero rivoluzionario, quindi anche il giornale ha almeno nel suo direttore delle parole non così di scontro. Università divisa, sì, è il giornale che tra l'altro volevo dirvi che sulla prima pagina riporta la fotografia di Pietro Maso a spasso per Milano, arriva in fabbrica e volano gli insulti, così in Semilibertà si rapina e si uccide. Dicevo, il giornale intervista 2 rettori, uno viene definito il rettore rivoltoso, sia l'assemblea e gli occupanti non li sgombero, dice Ezio Pellizzetti, rettore torinese, e mentre il rettore rigoroso Davide Bassi di Trento, cari studenti, nel mio Ateneo il 68 non tornerà, Trento fu una delle università più colpite, insomma, dalla contestazione degli anni 60, della fine anni 60. Ecco, questo sono 2 delle interviste che vengono pubblicate, sia l'assemblea agli occupanti non li sgombero, e ancora dice Pellizzetti, a proposito il rettore Ezio Pellizzetti dice che respingerà la richiesta del movimento No Gelmini di interrompere le lezioni in occasione della visita del ministro a Torino, ma ha scelto di non liberare Palazzo Nuovo, la sede simbolo dell'università subalpina, dai maratoneti della protesta che vi sono rimasti accampati tutta la notte. Dice che vuole dialogare con il governo, eppure non ha risparmiato i toni aspri e parla di tagli generalizzati e indiscriminati, che di fatto penalizzano chi è stato virtuoso, questo mentre c'è un'intervista, vi dicevo, a Davide Bassi, ci sono lettori che hanno fatto il 68 e pensano di essere tornati giovani. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Davide Bassi, rettore dell'Università di Trento e docente di fisica, non può non saperlo, ma sembra non preoccuparsene, spara bordate su colleghi e studenti. Questo il giornale. Il quotidiano, il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera invece pubblica un altro, cioè vede le cose da un'altra ottica, almeno con un servizio di Fabrizio Caccia, i giovani di AN, ma in piazza c'è anche la destra, e vediamo che cosa scrive Fabrizio Caccia. Il mondo di Stefano Scialanga, 21 anni, romano, dirigente provinciale di Azione Studentesca, è fatto di grigi, come dice lui, non di bianchi e neri. Per forza. Non deve essere facile avere AN e il PDL come partiti di riferimento e poi trovarsi a Roma da leaderino degli studenti del centrodestra nel bel mezzo della rivolta contro il governo. Questo scrive Fabrizio Caccia a questo proposito. Così Scialanga, quando parla, sembra un po' il Crozzo di Veltroni, quello del ma anche un equilibrista sul filo. Per esempio, se gli chiedi Azione Studentesca occupa o no, Scialanga risponde: noi non siamo contro il governo Berlusconi e non contestiamo la riforma Gelmini, ma da domani daremo anche noi il via alle occupazioni nelle scuole. Pazienza se Berlusconi non è d'accordo, noi siamo autonomi, il nostro slogan è semplice: basta professori incompetenti, più potere agli studenti. E questo, insomma, per dire, il Corriere della Sera registra questa cosa dal lato del fatto che c'è una parte della destra studentesca che è nelle contestazioni. C'è un Giannelli, riforma della scuola al governo in carica, e si vede la polizia che inizia, si prepara a una carica. Ancora Alessandro Schiesaro, l'amico del Partito Democratico, invece che aiuta la Gelmini, il latinista Alessandro Schiesaro di area PD non ha problemi a collaborare con il ministro del centrodestra, la Gelmini è innovativa. E poi il Corriere della Sera invece ha un servizio che non ha, mi pare non aver visto da altre parti, molto interessante, gli USA peggio dell'Iran, di Alessandra Farkas. New York, nessun paese della terra ha violato più risoluzioni degli USA, dice Miguel Descoto, il prete sandinista, nuovo presidente dell'Assemblea Generale del Palazzo di Vetro. Sì, questo si legge. E ancora, ha perdonato sia gli americani che negli anni Ottanta cercarono di assassinarlo col cianuro, sia il Vaticano che lo scomunicò ai tempi di Papa Giovanni Paolo II, col beneplacito dell'allora cardinale Ratzinger. È certo che a chiamarlo a Palazzo di Vetro sia stato Dio, e non ha dubbi circa la sua missione, realizzare la mia vocazione sacerdotale di missionario di Dio al servizio dei poveri e diseredati, costruire la pace e la giustizia nel mondo. Questa è l'intervista che viene fatta dal Corriere della Sera a Descoto, che critica l'imperialismo ed esalta il rinascimento sudamericano. Sì, una posizione importante di un personaggio davvero singolare. E poi leggo ancora dal Corriere della Sera: il successore di Haider, avevamo una relazione che andava oltre l'amicizia. Jorg e io eravamo legati da qualcosa di davvero speciale, era l'uomo della mia vita, lo ha detto Stefan Petzner, 27 anni, portavoce consigliere di Jörg Haider e ora successore dello scomparso leader della destra austriaca alla guida del partito di destra. E questo lo leggiamo sul taglio basso del Corriere della Sera. Rapidamente il riformista titola: Berlusconi fa la faccia feroce e affida a Peppino Caldarola un commento. Chiamate chi protesta, non la questura. Dobbiamo prepararci a teste rotte, polizie in assetto di guerra, alla nascita di gruppi estremistici, un paese precipitato nel caos. Berlusconi non tollera le occupazioni studentesche, con parole sopra le righe minaccia l'uso della forza. L'opposizione finalmente può gridare al regime. Siamo incamminati su una brutta strada, dice Peppino Caldarola. C'è un'altra difficile impervia, ma vale la pena di tentarla. La strada impervia per Caldarola, come potete verificare cercare leggendo questo editoriale, questo commento, è quella di invece un incontro, come dire, di andare a una mediazione con gli studenti anche da parte del governo, quindi una strada diversa. Il manifesto titola Maestro Unico, e insomma Maestro Unico è la polizia. Contro le occupazioni manderò la polizia, Berlusconi minaccia studenti, insegnanti e giornalisti, ammonito il manifesto. Dura reazione di Veltroni, Napolitano invoca un accordo e le mobilitazioni proseguono, e c'è Marco Bascetta che firma un editoriale dal titolo appunto Dichiarazione di guerra. Silvio Berlusconi ha perso la calma e anche la ragione, il sorriso si trasforma in ghigno, accade di fronte al dilagare di una nuova soggettività politica, di un tumultuoso movimento che in tutta Italia trascina centinaia di migliaia di persone. Questo, come dire, venne definita dichiarazione di guerra, e c'è anche un commento, prove di regime, di Giuseppe Di Lello. E con questa segnalazione dal manifesto, io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domattina.